in primo piano. E allora buongiorno per il quarto giorno e ultimo di questa settimana. Mi dispiace molto di lasciare questa postazione la mattina, anche se è così presto, perché come ho già ripetuto anche ieri, la lettura dei giornali è una cosa che mi piace molto, mi stimola, e così spero accada a tutti quelli che li leggono. Oggi è venerdì, siamo in conclusione di settimana, ci occuperemo nella prima parte delle questioni più serie tra cronaca, politica e economia. Nella seconda parte proveremo a parlare di cose un po' più leggere, un po' più carine, che riguardano anche l'alimentazione, che riguardano la cura, che riguardano anche il cinema. Allora, quello che ho trovato sfogliando i giornali questa mattina nelle loro prime pagine sono due notizie, o comunque due generi di notizie che abbastanza trasversali, che si ritrovano un po' dappertutto. La prima è sicuramente la vicenda della Fiat che sbarca in America. Questo viene visto da diversi punti di vista e viene analizzata anche sotto il profilo del costume, di come gli americani immaginano, pensano o immaginavano la Fiat, o le, meglio ancora, il settore specialistico della Fiat, cioè le macchine medio-piccole, le utilitarie. Gli americani, come sapete, sono fissati con i macchinoni, anche perché da loro la benzina non costa quasi nulla rispetto a noi. I loro consumi fino a questa ultima crisi non erano un problema, e adesso stanno riscoprendo una dimensione, diciamo così, un po' più umana anche dell'automobile. Questo quindi è uno dei temi, andremo a leggere qualche brano trovato sui giornali. Ancora la cronaca, c'è molta cronaca da questa foto abbastanza impressionante dell'episodio di cui parlava poco fa Alessandro Milan e di cui poi vi parlerà ulteriormente dopo le 8:30, la foto di questo gioielliere pestato a sangue dai rapinatori o da un rapinatore, dopodiché quest'uomo ha estratto la pistola, ha sparato e ora il rapinatore è in fin di vita. Quindi cronaca. Quindi la Fiat. Ci sono anche delle notizie internazionali abbastanza piuttosto interessanti, che riguardano per esempio la Cecenia, dove pare che la Russia stia lasciando, dopo circa 10 anni, se non ricordo male, di occupazione, si può dire in tanti modi, comunque sicuramente di conflitto, di un conflitto molto violento e che è stato esportato anche nella stessa Russia. Ricordo solo l'uccisione della giornalista, di cui non vorrei sbagliare il nome, che però è stata uccisa proprio perché sotto la sua casa, perché seguiva e denunciava le atrocità commesse dalle truppe russe in Cecenia. E infine ovviamente il terremoto. Bene, cominciamo allora dal Sole 24 Ore, per spirito ovviamente di corpo, ma non solo, perché ho trovato anche qui, e vi invito a leggerla assolutamente, delle analisi, alcune in prima pagina, altre all'interno, di grandissimo interesse. Vi segnalo innanzitutto, che non vi leggerò, questo articolo di Edmund Phelps, un premio Nobel, Il capitalismo non è infallibile, a pagina 13 del Sole 24 Ore. In prima pagina invece una analisi molto lucida di Alberto Alesina, un economista ormai, come dire, trapiantato negli Stati Uniti, che scrive. Il titolo è Rischio populismo alla svendita del secolo. Uno degli effetti della crisi finanziaria sarà quello di ridurre la disuguaglianza, quindi un punto di vista piuttosto originale. Chi ha perso proporzionalmente di più è chi aveva molta ricchezza investita nei mercati finanziari. Chi ricchezza non ne aveva ha perso molto meno. Chi inizia ora ad accumulare il risparmio ha di fronte prezzi di casa e azioni molto vantaggiosi. La, virgolette, svendita del secolo, come l'ha definita Larry Summers, l'economista di punta di Obama. Questo shock ribalta una tendenza pluridecennale, soprattutto in USA, di aumento della disuguaglianza, un aspetto ampiamente criticato del cosiddetto capitalismo anglosassone. Alesina continua ancora e prosegue all'interno, ve ne leggo altre pochissime righe. L'effetto crisi sui redditi più elevati è guardato con una certa soddisfazione dal cittadino medio. Infatti è diffusa fra molti la sensazione che l'aumento della disuguaglianza pre-crisi fosse particolarmente ingiusto, perché molta della ricchezza si era creata sulla finanza, su complicati strumenti derivati, su operazioni non capite dai più e disponibili solo solo a chi aveva agganci e molti soldi da investire. Tutto vero, ma un deleterio populismo antifinanza di certi politici non ha fatto che confondere le idee. E così prosegue e ripeto, mi è sembrato un'analisi di grande interesse, piena di spunti di riflessione. Una novità grafica sul Sole 24 Ore: nella prima pagina da ieri sono comparsi i titoli degli articoli più letti, più cliccati sul sito, quindi anche questa è un'altra indicazione di come si muove quel popolo sempre in aumento di persone che cerca su internet in tempo reale le novità e le indicazioni su quello che sta accadendo. Ecco, quindi i più letti: www.ilsole24ore.com. oggi viene segnalato il discorso del referendum, quello che sta slittando verso il 21 giugno. E c'è poi qualcosa su Microsoft che salva XP per 5 anni. XP, come sapete, è il sistema operativo di moltissimi dei nostri computer. Riparte il mercato UE dell'auto, eccetera. Quindi queste notizie le trovate sul sito del Sole e ieri sono state le più cliccate. Allora, il referendum verso il 21 giugno lo troviamo sul sito del Sole, e su questo argomento, che tiene le prime pagine di molti giornali, troviamo la nota di Stefano Folli. Tutti hanno notato come la risposta di ieri di Berlusconi, data ai microfoni di non so più quale telegiornale, forse di tutti, è stata: io il referendum alla fine lo faremo il 21 giugno, se si farà, perché altrimenti la Lega usciva dal governo. Sicuramente una risposta di grande realismo. Il dibattito è se ha senso, se è giusto spendere una cifra che può essere dai 170 ai 400 milioni di euro, a seconda di chi la calcola, in più per una questione di lite e di contrasto all'interno della maggioranza di governo. Stefano Folli nota questo. Due considerazioni a questo punto, su questa vicenda. Una riguarda la maggioranza, l'altra l'orizzonte della legislatura. È evidente che si è consumata una grave frattura fra la Lega e Berlusconi. Bossi avrebbe fatto cadere il governo nel caso in cui il Premier avesse concesso al referendum il traino del voto europeo. Forse sì, e in ogni caso sarebbe cominciata la guerriglia leghista contro l'esecutivo e nelle giunte locali. E sicuramente, questo lo aggiungo io, la guerriglia leghista, vi ricorderete, nel 1996 portò alla caduta del primo governo Berlusconi. Del resto, continua Folli, ed ecco la seconda considerazione, la legislatura in corso deve ancora individuare il suo profilo. C'è un nesso ideale che lega fra loro la legge elettorale da correggere, le riforme costituzionali e il federalismo fiscale. Ogni passaggio dovrebbe portare a un altro all'interno di un disegno complessivo di rinnovamento. Lo ricordava l'ex ministro Pisanu e non si può dargli torto. Ma, dice lui, questo disegno di rinnovamento ancora non si vede. Sempre il Sole 24 Ore. Il mix di misure fiscali per il fronteggiare le spese del terremoto, a pagina 3 vengono indicati 6 punti con molta chiarezza, sono 6 piccole schedine. E a pagina 2 c'è un articolo del ministro Renato Brunetta, che anche lui, ricostruzione sicura con l'etichetta della trasparenza, propone di importare i criteri della trasparenza e dell'efficienza della pubblica amministrazione anche nella ricostruzione del terremoto. Passiamo alla pagina 5, dove c'è una lunga intervista di Alberto Orioli a Epifani, il leader della CGIL, che proprio in questi giorni ha rinnovato una sua divisione rispetto agli altri sindacati nella firma del rinnovamento delle strategie dei contratti contrattuali. Una lunga intervista dove Epifani dice: sfido CISL e UIL sulla rappresentanza. Dopo la firma separata, per evitare la giungla contrattuale, mano libera alle categorie. Questa è la proposta di Epifani. A pagina 11, come vi dicevo, la notizia: Mosca si ritira da Grozny, dove Grozny è appunto la capitale della Cecenia. Il presidente ceceno Kadyrov: sconfitti i banditi, ora lo sviluppo. Dopo 10 anni concluse le operazioni antiterrorismo nella piccola Repubblica Autonoma. E vado per poi lasciare il Sole 24 Ore a pagina 12, dove c'è una piccolissima notizia che però mi piace di segnalarvi: occupazione, Call and Call, è un call center, a Locri assume 274 giovani. La notizia è che questi 274 giovani operatori, di cui il 72% saranno donne, soprattutto niente contratti di collaborazione o precario, l'annuncio riguarda infatti posti a tempo indeterminato. Queste alcune notizie tratte dal Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, Chrysler, così la soluzione Fiat. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Come vi dicevo, molti giornali oggi hanno in prima pagina e con grande evidenza questo fatto. Più vicino l'accordo, i sindacati americani soci con il 20%. Il piano dell'ingresso del lingotto del gruppo USA. Pressing della Casa Bianca sulle banche. Massimo Gaggi, nel suo articolo di fondo sul Corriere della Sera, dice: la prima impressione è quella di un pezzo di capitalismo renano, cioè diciamo quello che si usa in Germania, trapiantato oltre Atlantico, sindacalisti, consiglieri d'amministrazione come nell'esperienza tedesca, un trust controllato dal governo che diventa azionista, una soluzione che ricorda l'IRI, la logica originaria delle partecipazioni statali, e così via dicendo. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, una notizia che troviamo con questa evidenza, o forse che troviamo proprio solo qua: la ragazza pittrice al patibolo in Iran, condannata per un delitto commesso a 17 anni, ora ne ha 23. Delara Darabi, mi scuso se la pronuncia non è quella esatta, qui accanto, e ci sono delle foto, è una iraniana di 23 anni con la passione per la pittura. Fra 3 giorni sarà impiccata. Nel 2003 aiutò il fidanzato in una rapina. Delara si dichiarò poi colpevole per difenderlo. Anche Roxana Saberi, altra foto, è in carcere, giornalista americana-iraniana, è accusata di spionaggio. Ecco che il Corriere della Sera, anche nelle pagine interne, si occupa anche lui ovviamente di terremoto e continua a tirar fuori i dossier, dopo quelli tirati fuori l'altro ieri dal Sole 24 Ore, quello del 99 fatto fare da Barberi. Il titolo dell'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 9: interveniti o crolla tutto, ai PM il dossier segreto che annunciava il disastro, la protezione civile censì edifici nel 2005, ecco chi poteva salvare scuole e ospedali. In realtà, se ho letto bene, stiamo parlando sempre della stessa ricerca del 99 che esitò nel 2005 in un dossier della protezione civile. Vi salto la pagina e vi salterò su tutti i giornali le pagine che parlano della trasmissione di Santoro di ieri sera, perché è una faccenda che secondo me non merita grande rilievo. Però a pagina 11 del Corriere, nella stessa pagina vicino alla storia di Santoro, ce n'è un'altra notizia che vedo solo qua. E il comitato etico, sempre della RAI, indaga sul report. La Gabanelli, sono curiosa di sapere. Forse un'altra trasmissione di denuncia che va in onda sulla RAI la domenica sera, forse sta andando un po' in crisi o è a rischio, lo vedremo nei prossimi giorni. Vi stavo accennando poco fa alla prima pagina del Corriere e a questa storia della ragazza pittrice che sarà impiccata lunedì. A pagina 15 la storia e alcuni dipinti di questa ragazza che dice qua, da qualche parte l'avevo visto prima, che in sostanza è in carcere e continua a dipingere, eccolo qua: ha confessato un omicidio, poi ha ritrattato, coprivo il mio fidanzato, in carcere ha continuato a dipingere con le dita, e ci sono anche alcuni quadri di quelli che ha dipinto. Il punto di vista che trovo interessante è quello di Isabella Bossi Fedrigotti, in questa stessa pagina dove parla di Delara, della ragazza pittrice. I diritti delle donne, si intitola l'articolo di Isabella Bossi Fedrigotti, i diritti delle donne, un nuovo capitolo del negoziato con gli Ayatollah. Cioè, nei giorni scorsi abbiamo visto come Obama stia aprendo a una serie di opzioni per evitare rischi di tensioni o lacerazioni o scontri con l'Iran. Bene, davanti a questo caso c'è chi propone di aggiungere questo capitolo alla trattativa con l'Iran, e cioè quello la trattativa sui diritti delle donne. Ricorderete nei giorni scorsi anche le manifestazioni, era forse sui giornali di ieri, le manifestazioni a Kabul delle donne contro la legge antistupro, contro la legge che permette lo stupro in casa da parte dei mariti, e bene, queste donne che manifestavano prese a sassate per l'appunto da uomini e da donne con il burka. Ancora dal Corriere della Sera, che poi lasciamo, a pagina 35, qualcosa che ci collega al terremoto, ma con una prospettiva, ed è questa notizia: più laureati per le zone a rischio, i piani di reclutamento di Emergency e Medici Senza Frontiere. Tra le figure più ricercate ci sono ingegneri ed esperti di gestione delle finanze. E qui c'è questo articolo di Corinna De Cesare che spiega che tipo di figure cercano queste organizzazioni che tanto servono e sono così utili in certi momenti, e che tipo di studi convenga fare ai ragazzi per trovare posto in queste organizzazioni. Passiamo alla Repubblica, saltiamo l'articolo di Edmondo Berselli che inizia dalla prima pagina, ma il titolo dice già tutto: un premier sotto ricatto. Siamo ancora al discorso del referendum. Infatti la Repubblica decide di aprire su referendum ipotesi rinvio. Berlusconi cede alla Lega, no all'election day. Bossi ha minacciato la crisi. La consultazione il 21 giugno o tra un anno. Confindustria: votare con il ballottaggio sarebbe uno spreco. No all'imposta sui ricchi. E infatti viene riportata anche poi all'interno, a pagina, se non ricordo male, 3, la presa di posizione di Emma Marcegaglia per l'election day, cioè l'idea di votare tutti lo stesso giorno all'inizio di giugno per risparmiare sui soldi dei seggi, eccetera. Inaccettabile non farlo, dice la presidente della Confindustria. La Fiat, vi dicevo prima che è un tema oggi molto caldo. Paolo Griseri scrive così sulla Repubblica, un articolo che poi prosegue a pagina 11. Ridevano, si facevano beffe di quelle piccole scatole con le ruote che gli europei, gli italiani in particolare, chiamavano automobili. Ridevano, scherzavano e facevano il verso ad Humphrey Bogart: fix it again, Tony. Prova a ripararla ancora, Tony. Chiaramente la battuta è quella suonala ancora Sam. Messaggio chiaro, scrive Griseri: Fiat, l'auto che si scassa sempre. Oggi sono lì i signori di Detroit a tenere riunioni, programmare incontri con soloni dell'economia, estendere tappeti rossi ai piedi dei collaboratori della Casa Bianca per capire come e quali condizioni l'auto dello sfigato Tony possa in tempi rapidi salvare almeno una delle tre sorelle della capitale dell'auto USA. Un pezzo che vale la pena di leggere, è scritto molto in maniera divertente e soprattutto dice delle cose molto, molto vere. Sul terremoto la Repubblica titola a pagina 7: l'indagine bis delle assicurazioni, a rischio di risarcimenti dei danni. In campo periti e 007, crolli causati da errori dei costruttori. Sono arrivati da un paio di giorni, scrive Attilio Bolzoni, da un paio di giorni per i sopralluoghi, per chiedere ai vigili del fuoco e ai magistrati l'accesso fra le macerie, edifici pubblici e palazzi privati. Uno di quei periti ieri mattina ha iniziato con i carotaggi, i prelievi del calcestruzzo su pilastri e colonne portanti dell'ospedale dello Scandalo. Quindi sicuramente saranno degli altri controlli utili, sicuramente saranno finalizzati a ridurre gli esborsi delle assicurazioni, un esercizio sul quale le assicurazioni sono particolarmente abili e attente. A pagina 9 sul terremoto la Repubblica segnala anche con una foto: in giardino il primo mini chalet, l'ho comprato così non aspetto. Una delle famiglie terremotate, chiamata una ditta, in due giorni lo stanno finendo. È tutto in legno, 36 metri quadrati ed è costato 5.000 euro, chiavi in mano. Questa è la Repubblica. Andiamo avanti, sempre sfogliando velocemente la Repubblica. A pagina 15 c'è una pagina di cronaca, questa foto, ripeto, terribile dell'orefice malmenato che poi ha sparato al rapinatore. Soprattutto c'è a centro pagina: in cella l'omicida per un posto auto, un fatto successo a Roma mercoledì, che ha accoltellato per un posto auto un impiegato per strada. Quindi in cella l'omicida per un posto auto, virgolette, dice questo arrestato: mi dispiace ma non ho iniziato io. una logica veramente aberrante. Ancora cronaca, pagina 23 di Repubblica, i killer dei Sassi fuori dal carcere. Tortona, 12 anni fa, i lanci dal cavalcavia. In 4 ai domiciliari per buona condotta. E a Parma, arrestato il direttore del centro psichiatrico. Secondo l'accusa, i ragazzi ospitati nella struttura, quindi malati di mente, venivano maltrattati e sedati con forza a scopo punitivo. Cerchiamo ancora qualche notizia curiosa, siamo quasi in chiusura. Mediterraneo, mare di spreco, si butta via un pesce su tre. E quindi qui fa l'elenco, dice: un terzo delle prede che finiscono nelle reti dei pescatori viene preso e ributtato in acqua perché non ha mercato. La terapia è una campagna di educazione che parte dalle scuole, come fu fatto con successo per rilanciare le alici. Siamo quasi in conclusione, mancano veramente pochi secondi. E allora, sulla stampa, vi voglio segnalare, il titolo d'apertura è sempre sul referendum, quindi non ve lo segnalo, la cura fai da te del malato manda in rosso gli ospedali, gli italiani non applicano le terapie, rapporto shock, manca un legame medici-pazienti. Cioè cosa succede? Segnala che questa inchiesta, spesso dopo il ricovero, quando si torna a casa, si preferisce affidarsi al fai da te e così i costi ospedalieri si impennano almeno per un 30% in più. Questi dati shock di una ricerca svolta in Lombardia, ma valgono per tutti gli italiani. Penso, spero di avere ancora qualche secondo per segnalarvi che oggi su tutti i giornali c'è la pagina che segnala le nuove uscite cinematografiche del venerdì. Tra queste mi piace segnalare il film della Archibugi che esce oggi, si intitola Questione di cuore, con Antonio Albanese e Kim Rossi Stewart. È la storia di due uomini molto diversi tra loro che si ritrovano nel reparto di rianimazione di un ospedale per un infarto e poi le loro vite riprendono in una maniera un po' diversa, con due convalescenze molto diverse, e comunque è un film che sicuramente andrò a vedere.